ciao a tutti, come avete sentito poco fa da Tania, manderemo adesso in onda una intervista che è stata realizzata da Lucillo durante il Festival dell'Immaginaria. È un'intervista a più persone che fanno parte del progetto editoriale BLI, la biblioteca lesbica dell'inevitabile. Si tratta appunto di un progetto che si occupa di pubblicare appunto scritti, romanzi, una raccolta di saggi scritti da donne lesbiche e che diciamo non avrebbe la possibilità di essere pubblicato diciamo nel mercato generale. Quindi insomma questo progetto che va avanti da un paio di anni, ce lo racconteranno le ragazze che sono state intervistate appunto da Lucilla durante il Festival di Immaginaria a Bologna, e mandiamo subito il contributo. Allora, adesso siamo sempre Immaginaria e stiamo insieme in compagnia di tre donne lesbiche che condividono un progetto che si chiama BLI. Ora, sta a loro dirci che cos'è BLI. Intanto la prima persona che sentiamo è Elena Biagini. Elena Biagini, di Azione Gay Lesbica. Infatti BLI, Biblioteca Lesbica Inevitabile, è un progetto di un gruppo di lesbiche di Azione Gay Lesbica e del Collegamento Lesbiche Italiane di Roma. La Biblioteca Lesbica Inevitabile, come credo suggerisca il nome, è un progetto editoriale che va avanti da un anno e mezzo e che quindi è iniziato diciamo nel 2000, anche se nel 2000 non aveva ancora un nome e una progettualità diciamo organica e ampia come poi abbiamo cercato di dargli. Nel 2000 infatti in un gruppo di lesbiche appunto delle due associazioni abbiamo deciso di pubblicare insieme Diario di una misogena che ama le donne, un libro di vignette lesbiche di Sara, una vignettista che aveva pubblicato per anni sulla Bollettina e su altri giornali, su altre riviste, e con dei testi scritti di Valeria Santini. Pubblichiamo insieme questo libro, il progetto la cosa ci piacque e discutendo tra noi abbiamo deciso appunto di mettere in piedi la Biblioteca Lesbica Inevitabile, un progetto editoriale che non vuole essere appunto una casa editrice ma vuole essere un gruppo di lesbiche che pubblica libri scritti da lesbiche per le lesbiche, libri che presumibilmente non troverebbero pubblicazione in case editrici diciamo vere, istituzionali, e che quindi non troverebbero diffusione. Non è un progetto a scopo di lucro, è un progetto culturale che ha diciamo, insomma, l'obiettivo di diffondere la cultura delle lesbiche, soprattutto tra le lesbiche stesse. Fino ad oggi abbiamo pubblicato un libro l'anno e abbiamo pubblicato, dopo appunto nel 2000 Diario di una misogena, nel 2001 abbiamo pubblicato Nursi, Nespole e Camionare, il lesbismo negli anni 70 e 80 a Bologna, di Paola Cavallin, che come dice il titolo appunto si tratta di una rivisitazione storica del movimento lesbico, come è nato a Bologna, come si è strutturato, e anche poi dei luoghi delle lesbiche, non solo quindi la parte politica ma anche la parte proprio di vita sociale, aggregativa, eccetera. Dopo questo, l'anno successivo, all'inizio del 2002, è uscito Memoria Irregolare, 20 anni di testi lesbici selezionati dalla Bollettina del CLI. Nasceva da un evento questa pubblicazione, cioè dal fatto che la Bollettina aveva compiuto 20 anni nel 2001, e quindi abbiamo deciso di pubblicare questa raccolta dei testi, di molti dei testi in traduzione che sono passati dall'81 al 2001 appunto sulla Bollettina, e anche di testi italiani di movimento, comunque di riflessione, eccetera. Quindi diciamo che nella prima parte dell'attività del BLI abbiamo avuto soprattutto un fine documentaristico, quello di fare memoria, di cercare appunto di dare strumenti di memoria alle lesbiche. Dopo questo, adesso è appena uscito fresco di stampa l'ultima delle nostre fatiche, Detta e non, al Almanacco di vita lesbica di Valeria Santini, ma visto che qui abbiamo l'autrice e la curatrice, penso sia opportuno dar loro la parola. Va bene. Allora, Valeria, come prima abbiamo sentito anche la tua presentazione, io ho detto già in quella sede poco fa che il tuo appuntamento, il detto e non, che tutti i mesi usciva sulla bollettina, è stato per me un appuntamento piacevole. Vuoi dirci qualcosa su questa tua voglia di scrivere questa rubrica che è nata appunto sulla bollettina detto e non, e poi la voglia di raccogliere tutto quello che tu avevi pensato, prodotto, eccetera, in questa pubblicazione? Dunque, allora, io ho cominciato a scrivere nel 96, quando ho conosciuto Giovanna Olivieri, organizzando la seconda settimana lesbica, e lei mi propose di scrivere sulla bollettina. Io volevo una rubrica fissa, perché è sempre stato il mio sogno di avere una rubrica fissa ovunque, e quindi mi piaceva l'idea di poter, cioè partivo dall'idea di avere una rubrica, poi avrei visto cosa ci avrei messo dentro. Ed è stato, insomma, in questi 6 anni io praticamente ho scritto su vari filoni, seguendo un po' quello che capitava sul momento a livello politico, oppure quello che mi veniva in mente sul momento a livello più ricreativo, più di svago, o scritti un po' più ironici, eccetera. E a me piaceva molto, cioè l'appuntamento mensile mi aveva anche indotto a scrivere, cioè avere una scadenza e sapere che tutti i mesi, appunto, è una rubrica fissa, quindi devi far venire in mente qualcosa, mi ha molto stimolato. E poi l'idea di fare una raccolta, non mi ricordo com'è nata, mi sembra sia stata di Giovanna, però non un po' di tempo fa. E effettivamente 6 anni, i pezzi sono tanti. Io poi, rileggendoli per molte cose, non mi ricordavo nemmeno di averle scritte, cioè mi ricordavo vagamente, però, che appunto 6 anni fa. E è stato molto carino per me questa cosa, perché comunque vedere tutto insieme, tutto raccolto, a parte la selezione ovviamente, però questi anni di scrittura è stato, insomma, anche bello. Di soddisfazione, insomma. Molto di soddisfazione, poi era anche tanto, cioè appunto è venuto fuori un libro, per cui non mi ero reso conto di aver scritto così tanto. E poi mi piace il fatto che è molto vario come generi, che ovviamente se uno avesse detto scrivi un libro non gli sarebbe mai venuto vario come fare una raccolta di una rubrica, perché appunto spazia molto, che se invece scrivi un libro, anche se lo vuoi scrivere vario, ma non è che puoi alternare i registri così bene come nel tempo. No, la cosa che gli aspetti, no, al di là del fatto che nella pubblicazione che avete fatto ora avete voluto e dovuto dividerli per settori, no? Uno degli aspetti che almeno a me, quando trovavo la tua rubrica, ed era la prima cosa che andavo a cercarmi sulla bollettina, che mi faceva tanto ridere e sorridere di me e di noi, era proprio sugli aspetti della coppia, dell'amore, delle frasi così drammatiche che ci si dice tra lesbiche. Da dove prendevi spunto, da dove hai preso spunto, che cos'è che ti portava e ti porta ad avere questo sguardo da una parte disincantato e da una parte di estremo amore, direi, verso le lesbiche, che ti porta appunto a sorridere su di noi, ma anche a tirar fuori amore, perché secondo me è anche un amore, affetto, insomma, no? Quando ci si prende in giro in maniera bonaria, ironica, anche feroce in certi momenti, però è sempre un momento, rappresenta sempre un aspetto, diciamo, creativo tra di noi, ed una spinta a muoversi anche da ruoli fissi, no? Mi viene da dire. Allora, gli spunti dove li prendevi? Da vicende tue personali, da cose che vedi nelle altre, come ti venivano, insomma? Dalla sola. scusate di questo intervento, ma dopo la notizia a domanda di Lucella volevo tanto mandarvi un brano. Dalla somma di queste due cose, cioè sia di vicende personali che di quello che osservavo nelle altre, e io sono, direi che la mia maggiore inclinazione nella vita è occuparmi delle relazioni interpersonali di qualunque genere e della struttura delle persone che frequento, con cui ho a che fare. Cioè, con me non si può andare al cinema perché bisogna parlare, con me bisogna sempre parlare, se no io non la frequento le persone, perché se non ci parlo non mi interessa, e quindi ho una certa tendenza a analizzarle quando ce l'ho intorno, comunque a osservare quello che mi si muove intorno. Quindi sommando queste due cose, poi rispetto a alcuni settori, cioè io appunto spesso pensando a me dico che il decennio dai 20 ai 30 è stato il decennio delle relazioni sentimentali, io non ho fatto praticamente altro, con risultati pessimi, come computo finale, come bilancio, però quindi sono stata molto addentro al settore e ho avuto un modo di fare una notevole esperienza di osservare e di vivere molte cose. E poi il discorso dell'ironia che facevi tu prima è perché in realtà le lesbiche mi fanno molto incazzare, però sono anche la mia vita, cioè è proprio questo doppio aspetto. E come sempre, quando qualcuno è la tua vita, però contemporaneamente ci riponi molte aspettative e quindi non ti va mai bene, però non riesci neanche a avere poi uno sguardo troppo critico, cioè io non riesco a vivere al di fuori di, cioè il resto per me sono, non mi interessa, non mi soddisfa, non mi appassiona assolutamente. E quindi la passione è un motivo, no? di movimento, no? Sì, moltissimo. Non è nemmeno che sia completamente soddisfatta appunto del mondo lesbico, però comunque rimane il mio primo referente. Giù, noi ci conosciamo e condividiamo, no, una serie di cose, quindi con estremo piacere ti chiedo per te come ti è venuto in mente, vabbè lo immagino, però vorrei sentirlo dire da te, perché sei da anni sempre impegnata in questo aspetto, cioè nell'andare a cercare quello che di creativo, produttivo, culturale c'è tra le donne lesbiche in tutte le forme, e in questa, quello dello scrivere per esempio, mi sembra, quello del pubblicare, del diffondere, mi sembra che sia per te un pallino fisso, no? Sì, perché ovviamente io da una parte amo molto la cultura scritta, anche se mi piace molto anche la cultura visiva, quindi il cinema, la fotografia, eccetera, però nel libro che ognuno prende, riguarda, rilegge, che parla sempre alle generazioni nuove che arrivano e ricostruisce quindi una storia, un ambiente, un modo di pensare, ha un suo spessore, secondo me, di risonanza che io trovo molto utile, molto importante e anche per me molto suggestivo, no? Per me molte scrittrici sono per esempio state non solo persone importanti, ma proprio in qualche misura referenti, madri, in un periodo in cui non c'erano proprio altri referenti, quindi penso sempre che pubblicare un libro è una cosa molto interessante. Mi dedico quindi da anni a questo tipo di attività, che è appunto diffondere la cultura, però per poterla diffondere deve trovare chi la produce. Certo. E io sono sempre alla ricerca quindi di segnali, perché le lesbiche non è che non producono cultura, ma quasi mai parlano in quanto lesbiche, perché ovviamente c'è, se tu ti guardi attorno, anche storicamente puoi vedere come quasi nel passato di più, oggi un po' meno, comunque quasi l'80% di quello che viene prodotto in realtà è prodotto da donne lesbiche. Quindi questo mi ha sempre molto colpito, però quasi nessuno poi parla in quanto tale. E nel 96, quando ho incontrato Santini e quindi gli ho offerto la rubrica, è rimasto colpito da tre elementi fondamentali. Uno era che io avevo letto solo due cose sue, no? Che erano state pubblicate su Queer, e che erano la grande ironia con cui le parlava, la grande padronanza dello strumento linguistico, quindi proprio un piacere della scrittura che si vedeva in lei che scriveva, ma soprattutto nel leggerla. E quindi padronare e un partire da sé, e quindi questa sua profonda finezza interpretativa, di suggestione, di risonanza, era molto autentica, perché si sentiva che parlava a partire da sé, poi non necessariamente in toto autobiografico, no? Ma da un complesso di strutture, relazioni, di pensieri, in cui lei aveva ovviamente era coinvolta. E dopo 6 anni mi è sembrato interessante dare sia a lei una sintesi, diciamo così, di quello che aveva prodotto in questi anni, che lei li prendeva tutti come, sai, ti mando il pezzo del mese, no? Spesso sembravano proprio spunti nati dalla cronaca, giochi, quiz, a volte pezzi più seri, che diceva non lo metto, dico certo lo metto. E mi sembrava giusto sia per lei sia anche perché un libro ha tutta un'altra valenza rispetto a dei pezzi pubblicati sul giornale, così come Memoria Irregolare secondo me ha una sua forte pregnanza, perché pur essendo pezzi già tutti usciti in 20 anni, messi tutti insieme danno veramente l'idea che c'è un modo di interpretare la realtà di raccontarla, di rifletterci, eccetera, proprio, no? Di chi sta in una situazione di visibilità in quanto lesbica o di relazione con problemi. In questo senso credo che questo libro vale molto la pena di essere letto. Abbiamo aggiunto poi delle vignette di Maureen Lister, che ci sembrava in tono, perché lei è una disegnatrice umoristica, quindi in tono con il tipo di libro che abbiamo fatto. È fondamentalmente un libro di pezzi divertenti, ironici, che diciamo smuovono, no? il déjà vu, l'idea che abbiamo di noi, le frasi fatte, le situazioni tipiche, topiche che si vengono a creare, e quindi questo penso che sia molto interessante, più qualche pezzo serio, perché appunto avendo molti registri di scrittura, dalla poesia bellissima, purtroppo però per è sempre molto tendente al tragico, e quindi al verseggio facile, tipico di chi è abituato forse per tradizione alla toscana età che produce, no? Insomma, quindi una grossa varietà di registri, anche se in generale è un libro, diciamo così, molto ironico, che fa pensare però diciamo così, sorridendo. Mm-hmm. Va bene, e allora quello che vi dico io, intanto complimenti, perché è un bel progetto, perché personalmente io, ma anche le altre compagne del mio gruppo, vi seguono, hanno preso i vostri libri, perché ci piace che altre donne ancora li possano prendere e possono fruire di questa bella cosa. L'altra cosa che vi volevo dire allora è una scommessina che ci possiamo fare insieme. Noi da tanto tempo, da quando abbiamo esordito con la radio, abbiamo incominciato a ipotizzare di fare una pubblicazione dei nostri pezzi, cercando di rimetterli bene. Magari ci potremo fare un incontro per una prossima pubblicazione, prossima avventura, non sappiamo quando, però è un progetto che piacerebbe anche a noi. Quindi ne riparliamo insieme, se a voi va. Bene, volentieri. Grazie, buon ascolto. Speriamo che queste interviste vi siano piaciute, e intanto vi volevo dire che il primo brano vi ho fatto sentire è Swinging di Blue Cantrell, poi vi ho fatto ascoltare Amado Mio di Fisher Roberts, e ora invece state ascoltando Nimmama di Kaja. Thank you. Allora, vi ricordiamo naturalmente che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Se volete parlare con noi potete chiamare qui in radio allo 06 49 17 50, oppure potete mandarci un vostro contributo al nostro indirizzo email, che è contatti@clrbp.it. Annalisa sghignazza, non si sa per quale motivo, evidentemente perché sa che io non sono assolutamente in grado di parlare a livello tecnologico, telematico o internetmatico. Ci siamo dimenticate infatti di salutare anche Annalisa, che è venuta gentilmente ad aiutarci a fare la tecnica. E per questo si sono verificati tutti questi inconvenienti, naturalmente. Sono anche venuta per rispondere al telefono, ove mai qualcuna di voi ci volesse contattare qui in radio. Ricordiamo quindi il numero, che è 06 49 17 50. Vi aspettiamo, neanche un trillino. La musica che ha scelto Tania non vi piace? No, direi che Annalisa è quasi a quello che dite quando telefonate. Dunque, naturalmente volevo anche ricordarvi che se siete interessate all'acquisto, grazie per questi trillini, siete splendide, grazie. Per me. Per Annalisa, naturalmente. Se siete interessate ad acquistare i testi editi dalla biblioteca Lesbica Inevitabile, lo potete fare presso gli archivi lesbici italiani, gli ALI, al Buon Pastore. E adesso mandiamo qualche appuntamento. Gli appuntamenti. E partiamo naturalmente da Lesbollywood, la rassegna cinematografica a tematica lesbica, che appunto si tiene tutti i giovedì alle 21.30 solo per donne, lo ricordiamo naturalmente, in via San Francesco di Sales 1B. Allora, partiamo immediatamente dal 20 di marzo, quindi da giovedì dopodomani. Ci sarà alle 18.30 un incontro con Maria Rosa Cutrufelli su Kate Millett. Un paio di notizie su Maria Rosa. Maria Rosa è di origine siciliana, vive e lavora a Roma, è una scrittrice e saggista e ha pubblicato numerosi libri d'inchiesta sul lavoro e condizione della donna, romanzi, libri di viaggio, ed è stata direttrice della rivista Tutte Storie. Kate Millett, naturalmente, se mai avesse bisogno di una presentazione, è una saggista e artista americana ed è al centro di questa conferenza, soprattutto per quanto riguarda la narrativa lesbica. Sempre il 20 di marzo proietteremo nuovamente Aimé Jaguar di Max Farberbock, è un film del 1988, un film tedesco che è stato tratto dall'omonimo libro di Erika Fischer. Si tratta di una storia vera, realmente accaduta, che si svolge a Berlino tra il 43 e il 1943, naturalmente il 1944. Vi anticipiamo la trama: mentre piovono bombe, la Gestapo purga la città dagli ebrei che la abitano, nasce una grande storia d'amore tra la borghese Lili Wust, sposata con quattro figli, e Felix Schragenheim, una giornalista ebrea, membro del movimento clandestino. Per Lili questa storia è quanto di più travolgente le sia mai capitato nella vita. Per Felix è un amore che alimenta la speranza di sopravvivere. Mezzo secolo dopo Lili racconta la sua storia alla scrittrice Erika Fischer, mostrandole le lettere che lei e Felix si erano scambiate e le fotografie che le ritraggono. Il film è veramente imperdibile, lo abbiamo dato più volte e ha sempre avuto un grandissimo successo. Quindi invitiamo quella di voi che non l'hanno visto a venire al Buon Pastore il 20 di marzo circa alle 21. To your spirit, getting better, getting warmer, let the sunshine. State ascoltando Let the Sunshine di Sanko Namchila. All the troubles, all the darkness, learning yourself. sunshine. Poco andrà la sigla finale, ma rimanete con noi perché ci sta ancora un altro quarto d'ora di diretta. Perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. E allora, dunque, continuiamo con i nostri appuntamenti, oggi ne abbiamo tantissimi, e proseguiamo con Lesbo Hollywood per la prossima settimana, quindi il 27 di marzo, e manderemo il film La maschera di scimmia di Samantha Lang del 2000, un film australiano tratto dal romanzo omonimo di Dorothy Porter. Si tratta di un film che è stato accolto in modo alquanto contrastato dalle lesbiche, ma come forse ormai ben saprete, noi cerchiamo di non fare censure sui film che proiettiamo, perché abbiamo l'intenzione di dare una visione abbastanza ampia di come le lesbiche vengano rappresentate appunto nei film. A questo proposito siamo sempre aperti a consigli, naturalmente su nuovi titoli oppure su titoli che andrebbero rivisti, e quindi ancora una volta vi invitiamo a telefonarci o in radio adesso al 491750, oppure il mercoledì dalle 21 alla nostra sede di via San Francesco di Sales 1B allo 0668 64201, oppure via email al nostro indirizzo, ve lo ripetiamo, contatti chiocciola clrbp.it. Annalisa, non ridere che mi fai confondere. Dunque, proseguiamo ancora, vi ricordiamo che ogni venerdì presso il Circolo degli Artisti di Via Casilina 42, The Gay Project presenta Homogenic. L'orario d'apertura è le 23.30, l'ingresso costa 5 euro. Il 21 marzo sboccia la primavera nella notte di Homogenic, quindi alle 22.30 sarà presentata uno spettacolo teatrale. Il titolo è La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, e per la regia di Gaston Troiano. Se volete delle informazioni in merito a questa iniziativa potete cliccare sulla pagina web di Gay Project, www.dgayproject.org. E invece per quanto riguarda le iniziative nel resto d'Italia, abbiamo a Bari, per quanto riguarda le iniziative all'interno del Bari Pride 2003, gli eventi teatrali del Gay Pride dal 1 marzo al 6 giugno al Teatro Duse a Bari, e in particolar modo 15 e 16 marzo Calusa, Confini Labili della compagnia Nuove Produzioni Spettacolari, con testi di Antonella Maddalena e musiche di Giuseppe Detrizio e Fabrizio Piepoli di Radicanto. Invece a Modena l'associazione La Manica Tagliata bandisce un concorso per due copioni teatrali, uno a tematica gay e l'altro a tematica lesbica, per l'edizione 2004 della rassegna La Manica Tagliata. I testi dovranno essere inviati via email all'indirizzo info@lamanicatagliata.com, corredati di nome, cognome, indirizzo e numero telefonico dell'autore o autrice entro il 31 maggio 2003. E invece per quanto riguarda Bologna, venerdì 28 marzo per tutta la notte il Castro apre per la prima volta le sue porte a un evento riservato esclusivamente alle donne. Dalle 23 le antiche mura della Salara ospiteranno, dopo l'inizio, hip hop con la DJ Lasky e DJ dal Venus Rising Gay Village di Roma. Ci stanno tutti i nomi in inglese qua, non si capisce niente. Beh, come potete notare, state parlando con una madrelingua poi, no? Comunque, tra grande musica, tante ragazze, risate non finire, la serata organizzata da Arcilesbica Bologna proseguirà con le Spaventapassere, che presenteranno al pubblico bolognese il loro nuovo spettacolo Frivolezze Tattiche, ingresso 7 euro. E per le informazioni, allora, al 348 477 8312. Invece per quanto riguarda sempre Bologna, il 29 marzo Fuoricampo si presenta, e quindi il gruppo di Fuoricampo organizza questa serata in cui si faranno oltre alle chiacchiere presenteranno i loro progetti e festeggeranno con noi. Il programma della serata: c'è aperitivo, buffet, poi pubblicità per Fuoricampo, e poi c'è anche uno spazio riservato al teatro. Paola Cavallin con Incupito che cosa dici? Prego, puoi intervenire? No. Comunque, vi consigliamo il 29 marzo di andare a Bologna e consigliamo ad Annalisa di andarsene un po' più in là. E per ogni informazione www.fuoricampo.net. E invece per quanto riguarda l'email, fuori.campo@libero.it, telefono 051 62 41 015, fax 051 34 9969. Águas de março, é o fim da canção. brillando. É a luz da manhã, e o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garapa de cana, e o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, o copo na cama. É o carengue sata, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rá. É um resto de mato, na luz da manhã. Sal as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pom, pom, pom. É um espinho no mar, é um corte pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um poço ansinho. É um passo, uma ponte, é um sapo marrado. É um belo horizonte, é a febre terçal. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, pinho, pinho, peixe, oco, oco, pinho, água, hidro, vida, ó, frente, pote, aço, sol, au, au, au, ela, ela, inho, inho, inho, inho, inho, eixo, eixo, eixo, eixo, eixo, oco, inho, aco, hidro, ida, ida, ida, ó. Fechando o verão, e a promessa de pinta no teu coração. É pau, é pedra. Allora, dunque, continuiamo con i nostri appuntamenti. Il 22 marzo 2003 naturalmente ci sarà un incontro metodologico dedicato cioè a riconoscere i diversi modi di conoscere o costruire coscienza e conoscenza tra donne, ovvero al significato del femminismo transnazionale. Si tratta di un'iniziativa intitolata Dialoghi di donne sulla globalizzazione 2003, il femminismo transnazionale a cura di Bianca Pomeranzi. Il convegno si terrà presso la Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19 a Roma. E dunque continuiamo con un tono un pochino più leggero. Per quante di voi hanno deciso di andare in vacanza adesso a marzo, potete naturalmente cominciare a pensare alle vostre vacanze estive con molto molto anticipo. Annalisa ride, ma naturalmente è sempre lei la pietra dello scandalo. E quindi dall'11 al 16 agosto Viviana Geron organizza una vacanza per donne in Toscana. Se siete interessate potete chiedere il programma in dettaglio a Viviana contattandola allo 0226 825314. Vediamo anche l'indirizzo mail vivijoy@iol.it. E possiamo concludere invece con il nostro appuntamento, quello di giovedì prossimo sicuramente, che c'è a me Jaguar. E vi ricordiamo invece che le sorellastre organizzano tutte le domeniche a pranzo un brunch fatto di cose buonissime con un buffet ricchissimo, e ci invitano ancora una volta alla nostra sede che è via di San Francesco di Sales 1B. Allora, io sono Annalisa, ho partecipato a questa trasmissione perché hanno fatto tutto loro al mixer, c'è stata Tania bravissima, vi saluto, vi aspettiamo sempre il giovedì. E con me credo che vi salutino, vogliono salutarvi anche... Ciao! Naturalmente, ciao ciao ciao! Ciao a tutte! At 15:45 hours, India conducts...